Well, you've got the idea. The two diners have enjoyed a very good meal, only to discover that the restaurant does not take travellers' checks. It does accept credit cards, but not the particular card that the man offers. Sfortunatamente, unfortunately, né il signore, neither the signore, né la signora, nor the signora, hanno un'altra carta di credito. Is carrying another credit card. Sfortunatamente, né il signore né la signora hanno un'altra carta di credito. And neither customer is carrying any cash. E né il signore né la signora hanno dei contanti. Sfortunatamente, né il signore né la signora hanno un'altra carta di credito. E né il signore né la signora hanno dei contanti. So you can probably guess what happens next. But just in case, here are some words and phrases to help you understand. Come al solito, ascolti l'italiano e lo ripeta dopo la seconda volta. Mi seguano. Follow me. Formal plural. Mi seguano. In cucina. To the kitchen. In the kitchen. In cucina. Il lavapiatti. The person who does the washing up in a restaurant. Il lavapiatti. Malato. Ill. Malato. La lavastoviglie. The dishwasher. La lavastoviglie non funziona. It doesn't work. Non funziona. Ecco, queste parole ed espressioni ancora una volta. Mi seguano. Non funziona. In cucina. Il lavapiatti. Malato. La lavastoviglie. Ed ora ascolti. Allora, signori, mi seguano in cucina, per favore. In cucina? Sì, signora, subito. Il lavapiatti è malato. È malato? Ma caro! E la lavastoviglie non funziona. Oh, cara! Of course, that's a bit extreme, and these days such a situation is unlikely to happen in towns and cities where cards are almost universally accepted. However, in some smaller towns and villages, you may have some problems either with credit cards or travellers' checks. So, wherever you are, the best thing to do is look at the window before you go in. The credit cards that a restaurant will accept are usually displayed on a sticker in the window, or you can simply ask before you order. Scusi. Mi dica, signora. Accettate le carte di credito? Sì, signora, accettiamo tutte le carte di credito.